peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni. Oggi direi che il filo conduttore può essere quello dei i nipotini di Chicago, in qualche modo. In sostanza lo stile chicagoano, che è uno dei pochi ultimi, degli ultimi, diciamo, stili territoriali riconoscibili, che poi naturalmente confluiscono nella Grande Vila come un polo di riferimento ormai obbligatorio, comunque è un genere, uno stile e anche una comunità musicale che ha mantenuto delle caratteristiche. I più giovani hanno comunque costruito variazioni su questi stili e riescono ad essere riconoscibili e a produrre cose interessanti. Alcuni di questi sono ormai musicisti ben affermati, penso per esempio al primo gruppo che ascoltiamo, un gruppo che credo che sia il suo secondo lavoro discografico. Si chiamano i Illegal Crowns, quindi corone illegali, ed è guidato, formato, diciamo, capitanato da Mary Alvorson e Taylor Obinum, due dei pupilli, due degli allievi più bravi, più consolidati ormai, della scuola di Anthony Braxton. Poi si sono raccolti intorno anche alla batteria Thomas Fujiwara, sicuramente uno dei batteristi più percussionisti, batteristi più interessanti, e poi un ospite diverso è Benoit Delbecq al pianoforte e alle tastiere. Il risultato è interessante, diciamo, di ottimo livello. Ascoltiamo da questo incontro, da questo quartetto in parte, come dire, rodato da una conoscenza di molti anni, quindi da una collaborazione fatta di molti anni alle spalle, che naturalmente facilita anche quello che è l'interplay e il linguaggio delle comunicazioni all'interno della formazione. Ascoltiamo due di queste composizioni. Thank you. Thank you. Era un quartetto Illegal Crowns, un disco uscito per la Rogue Art, un'etichetta molto attenta a quello che è l'avanguardia, i musicisti dell'avanguardia, soprattutto provenienti dall'area chicagoana. E una formazione notevole, oltretutto con una musica intelligente, piuttosto creativa. E altro gruppo interessante che nel 2016 è stato uno dei più perlomeno salutato con più attenzione anche da parte della critica, è un trio, una formazione di trio, e in un progetto chiamato Hearts and Minds, e è guidato da Jason Stein, poi alle ance, diciamo, poi anche Paul Gian Lorenzo al basso e Frank Rosali alle percussioni. E Jason Stein è uno dei talenti emergenti, ma ormai da tempo, si può dire uno dei talenti più interessanti sulla scena chicagoana, e fa parte di questa schiera di giovani sassofonisti che cercano anche la propria strada, diciamo, espressiva per lasciare anche un qualche segno di differenza rispetto ad altri. Questo è un progetto ben riuscito. Diciamo che le occasioni di poter ascoltare Stein come leader sono veramente poche, e meriterebbe di essere ascoltato maggiormente, perché poi dimostra, quando glielo si consente, dimostra di avere ottime capacità anche di leadership, diciamo, di formazioni piccole o medie, ma anche proprio di composizione, di un suo mondo originale che potrebbe avere anche più ascolti. Ascoltiamo un paio di brani composti da Jason Stein in questo trio. Thank you. Questo era il trio di Jason Stein con Paul Gianlorenzo e Frank Rosalie, Hearts and Minds, un lavoro uscito qualche mese fa e decisamente ben riuscito, appunto una situazione cameristica con recuperi anche di un certo blues, di un certo spirito blues, anche un blues diciamo del cool degli anni 50 e comunque con sonorità interessanti. Altro, in questo caso, decisamente un personaggio nuovo, almeno la prima volta che passa per Salpinas, è un giovane sassofonista, Johnny Kretzmer, che ha già fatto alcuni lavori, lavora nell'ambito newyorkese, nell'area newyorkese, ma che comunque si rifà un linguaggio che negli ultimi anni ha un certo seguito, diciamo, che è questo recupero del free, degli inizi della storia del free, quello che si può definire un free bop, e trova anche degli ottimi collaboratori, ad esempio Steve Swell al trombone, che è uno dei musicisti più attivi anche sulla scena internazionale come sideman in varie situazioni, e Chad Taylor alla batteria. Poi si aggiungono anche Thomas Eberer alla cornetta, alla tromba, e Max Johnson al basso. Quindi è una formazione importante che accompagna, appunto, che fa parte quindi del quintetto di Johnny Kretzmer, che suona il sax tenore. Ascoltiamo un paio dei momenti, un brano diciamo che può significare un po' la cifra di questa formazione, di questa musica, di queste composizioni di Kretzmer, e il secondo, che è la parte conclusiva di un lungo brano, quindi una sorta di movimento che si conclude con una nenia, una sorta di nenia iterata, che ha delle evocazioni che ricordano anche certe esperienze dell'Art Ensemble o anche di San Rai in altre occasioni. Ascoltiamo questo interessante sassofonista che propone questo Five è il numero dei musicisti, ma è anche, credo, il quinto lavoro a suo nome, che viene, anche se diciamo che non è poi tanto reperibile l'intero, diciamo, la discografia di Kretzmer. Thank you. Thank you. Questo era Yoni Klezmer, il Five, un disco titolato Five, un quintetto guidato da questo giovane sax tenore, promettente sicuramente perché si ascolta con delle buone qualità di strumentista e anche con una certa fantasia, una certa creatività nella scrittura dei propri brani. Viene accompagnato poi da alcuni personaggi di alto livello come Thomas Eberer alla cornetta, Steve Swell al trombone, Max Johnson al basso e Chad Taylor alla batteria. Un disco uscito alcuni mesi fa per la Out Now Recordings. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche potete trovare nel nostro sito radiocittapugico.it alla sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima. Salt peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.